giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Dichiarato dalla Regione lo stato di sofferenza idrica, l'acqua resta nei bacini per aiutare l'agricoltura. A Pordenone già attiva la stretta sui consumi domestici con sanzioni salate a chi trasgredisce. Manovra estiva da record varata dalla Giunta regionale vale 680 milioni, 130 andranno alla sanità. Un altro mese di chiusura per la Galleria di Montebello a Trieste, necessarie alcune opere non previste. Salgono ancora i ricoveri Covid in area non critica, 1361 ieri nuovi casi di contagio e un decesso. Arrestato dalla polizia slovena l'omicida dello spacciatore del Carso, un 58enne di Duino Aurisina. È una donna, il pirata della strada che ha provocato l'incidente mortale di uno scooterista a Ronchi dei Legionari. Quasi 60 coltellate per Elisabetta, autopsia sul corpo della donna uccisa dal marito a Codroipo. I Maneskin accendono Lignano, 28.000 fan per la data zero del tour della band romana. Domani a Trieste, Italia-Slovenia di basket, al debutto di Pozzecco sulla panchina azzurra. 7.19 di venerdì 24 giugno, buongiorno da Anna Vitaliani e Rita Micoli. Subito uno sguardo al meteo, il cielo è sereno, poco nuvoloso sulla regione. A Trieste 24 gradi, a Gorizia 20, a Udine 21 gradi, 21 e mezzo a Pordenone. Sul Piancavallo 13 gradi, a Sappada 13 e mezzo, 15 gradi a Tarvisio, a Forni di Sopra 16, a Tolmezzo 20 gradi. Su Monte Zoncolano e Monte Lussari 12 gradi, a Lignano 26 grado 25 e mezzo, temperatura del mare 27 gradi. Le previsioni dell'ARPA oggi su pianura e costa, cielo in genere sereno, poco nuvoloso sui monti, variabilità con schiarite più ampie tra la mattinata e il primo pomeriggio, mentre dal pomeriggio saranno probabili rovesci e temporali sparsi che in seguito potranno interessare localmente anche pianura e costa, possibile qualche temporale forte, vento in prevalenza da sud o sud-ovest moderato. E una bomba d'acqua ieri sera si è scatenata prima sul Pordenonese per poi arrivare nel Medio Friuli, infine a Gorizia e sul Collio. L'allerta meteo della Protezione Civile, allerta meteo giallo scattato ieri, durerà fino alla mezzanotte di oggi. Una decina gli interventi dei vigili del fuoco di Pordenone, cavi elettrici in cortocircuito, pozzetti delle fognature saltati a causa dell'imponente afflusso d'acqua, Spilimbergo e Arba di Maniago le zone più colpite. Anche a Udine una trentina gli interventi e a Gorizia le squadre sono intervenute soprattutto per alberi pericolanti alla degli scantinati tra Gorizia città e Cormons. Precipitazioni che non bastano certo a ripristinare la situazione di carenza idrica. Il presidente della regione Massimiliano Fedriga ha firmato il provvedimento antisiccità che stabilisce una deroga alla norma in vigore, stabilendo che il flusso vitale nei fiumi possa giungere in alcuni casi anche ad un valore pari a zero, quindi taglio dei rilasci di acqua verso valle per far fronte alle esigenze irrigue dell'agricoltura e limitazione della risorsa idrica per l'uso domestico, il tutto accompagnato da una campagna di informazione per eliminare ogni forma di spreco. Il taglio dei rilasci potrà venire a valle della presa di Zompitta, consentendo così di continuare ad alimentare il sistema delle rogge di Udine, Palma e Cividina. Stessa cosa consentita sull'asta dell'Isonzo, dove è messa la deroga con portata inferiore a 40 metri cubi al secondo, a Salcano e a valle dell'invaso di Ravedis e dello sbarramento di Ponte Maraldi per garantire una maggiore quantità d'acqua negli invasi del consorzio di bonifica Cellina Meduna. L'ordinanza regionale invita i sindaci ad assumere tutte le opportune ulteriori iniziative anche mediante emissioni di apposite ordinanze, cosa già fatta a Pordenone, dove il comune aveva già fortemente ristretto il consumo di acqua anche in ambito domestico. Sentiamo. Limitare l'uso dell'acqua della rete pubblica di acquedotto ai soli fini potabili e igienico-sanitari. Vietati gli utilizzi diversi come l'irrigazione di giardini, orti e parchi, il lavaggio di automezzi, il riempimento di piscine private e quant'altro non sia strettamente necessario. L'eventuale utilizzo dell'acqua pubblica per questi scopi, seppur sconsigliato, può avvenire solo dalle 22 alle 7. Sono le prescrizioni contenute nell'ordinanza del sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani, valida fino al 30 settembre per far fronte alla grave crisi idrica. Faccio appello al senso del dovere, al senso di responsabilità di tutti i cittadini nel non girarsi dall'altra parte, ma nel rispettare questa ordinanza, considerando anche che chi non la rispetta potrebbe essere passibile anche di una sanzione anche salata. È in corso una lenta ma progressiva diminuzione della produzione d'acqua a servizio delle reti d'acquedotto, in particolare dai pozzi di falda. Si riscontra un eccessivo consumo della risorsa, soprattutto di prima mattina e verso sera, cioè negli orari in cui vengono solitamente innaffiati orti e giardini. Il calo delle portate e delle pressioni potrebbe determinare anche nel breve periodo una serie di disservizi, soprattutto nelle zone più critiche del territorio, oltre ad una sensibile diminuzione degli stoccaggi idrici nei serbatoi. Per la violazione delle disposizioni dell'ordinanza, la sanzione amministrativa va da 25 a 500 euro. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. E la siccità sta mettendo a dura prova i pesci in fiumi, torrenti e canali. Senza l'intervento dell'ente tutela del patrimonio ittico, morirebbero forse a migliaia ogni giorno. Una delle principali operazioni di trasferimento si è svolta sul Cormor, vicino a Castions di Strada. Lì abbiamo parlato con il responsabile della gestione idrica dell'ente, Massimo Zanetti. Questi numeri danno la dimensione dell'emergenza, perché nel corso del 2021, nel corso di tutto l'anno 2021, siamo intervenuti 16 volte per asciutte naturali, cioè carenza d'acqua per cause naturali. Nel corso del 2022, nei primi 6 mesi, abbiamo già superato i 120 interventi, quindi abbiamo un ordine di grandezza superiore. Tant'è che avete dovuto chiedere aiuto alla Protezione Civile. Sì, è in corso la sottoscrizione di intese con la Protezione Civile per adoperare i volontari della Protezione Civile ad integrazione delle nostre squadre, che già sono composte da dipendenti, da operai dipendenti dell'ente, da volontari dell'ente tutela patrimonio ittico, a cui dobbiamo somma riconoscenza, e verranno integrate anche dai volontari della Protezione Civile. Perché è importante il vostro lavoro? C'è sicuramente una questione di pietà nei confronti dei pesci, ma anche di biodiversità. Certamente, guardando le statistiche dei pesci catturati, ci accorgiamo che di fatto abbiamo catturato tutte le specie presenti in Friuli Venezia Giulia. Alcune non hanno alcun problema di conservazione, mi riferisco ad esempio alla carpa, che catturiamo sempre in numeri abbondanti, ma altre come il barbo, la tinca soprattutto, o altre specie, il luccio, che vengono catturate in contesti simili a questi, l'intervento ha anche un significato di conservazione delle specie. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Una siccità così grave già da metà giugno non era mai successa prima. La situazione non è stata affrontata adeguatamente nel passato e oggi il sistema agricolo e agroalimentare ne paga le conseguenze. Sono state alcune delle parole di fine mandato di Philippe Turn Valsassina all'Assemblea dei Delegati di Confagricoltura Friuli Venezia Giulia, la Tisana. Le nuove regole europee non consentono alle regioni di intervenire sulla PAC e sul PNRR, ha detto l'assessore regionale alle risorse agroalimentari Stefano Zanier, compresi i progetti sul tema della carenza idrica. Ciò nonostante, ha detto Zanier, il Friuli Venezia Giulia metterà a disposizione ulteriori 10 milioni di euro, oltre ai 25 già stanziati in passato per l'ammodernamento delle reti irrigue e per la razionalizzazione della raccolta d'acqua. Manovra estiva da record, quella decisa dalla giunta regionale. Il pacchetto di interventi si arricchisce di oltre 150 milioni di euro, portando a 680 milioni il documento che sarà sottoposto al vaglio del Consiglio Affari da Padrone, Sanità, Viabilità ed Edilizia. Si arricchisce ancora la dotazione della finanziaria estiva dopo che la giunta regionale ne ha messo a punto il testo da presentare al Consiglio. Adesso il documento pareggia su 680 milioni di euro, con l'innesto di risorse aggiuntive per 158 milioni. La posta più importante sono i 70 milioni di euro che serviranno a far partire le operazioni societarie propedeutiche al passaggio della concessione autostradale da Autovie Venete alla nuova società Alto Adriatico. A beneficiare di nuove risorse anche altri interventi del settore infrastrutture, in particolare sono in arrivo 10 milioni e 700 mila euro in più per la viabilità straordinaria da realizzare in vista della capitale europea della cultura sul confine goriziano. Per la manifestazione del 2025 in senso stretto sono stati invece stanziati 9 milioni aggiuntivi. Cifre che confermano il valore record di questa manovra estiva, confermati nel testo della Giunta anche i 130 milioni destinati alla sanità e l'intervento già annunciato un mese fa, che dovrebbe aiutare 53.000 piccole e medie imprese regionali a ridurre il costo dell'energia, 40 i milioni a disposizione. A bilancio la Giunta mette anche 45 milioni per l'edilizia agevolata e oltre 26 milioni per il fondo di rotazione in agricoltura. Altri 15 milioni serviranno a rifinanziare lo sconto carburanti e più di 9 per aiutare i comuni a sostenere i minori in arrivo dall'Ucraina. La finanziaria comincerà il suo percorso in commissione il 5 di luglio per approdare in aula alla fine del mese. Andrea Vardanega, TGR Friuli Venezia Giulia. La cronaca adesso: è stato arrestato ieri a Capodistria un 59enne di Duino Aurisina, Adriano Petelin, sospettato di aver ucciso ad aprile un uomo, Dario Grmec, sul Carso sloveno, un delitto che sarebbe maturato nell'ambiente dello spaccio di droga tra Italia e Slovenia. Adriano Petelin, 58 anni, residente a Duino Aurisina, a Trieste, è stato arrestato dalla polizia slovena a Capodistria con l'accusa di omicidio. La vittima è Dario Grmec, 57 anni, delitto avvenuto il 2 aprile scorso sul Carso sloveno, a Kobieglava, tra Komeno e Staniel. L'uomo è stato ucciso con diverse coltellate. Il corpo semicarbonizzato era stato ritrovato nella cucina dell'abitazione, cui era stato appiccato un incendio. Le indagini si sono subito indirizzate in Italia, nell'ambiente dello spaccio di droga per il via vai di persone provenienti dal Carso triestino che frequentavano la casa di Grmec e per le tracce di sostanze stupefacenti ritrovate all'interno dell'abitazione. Dalle indagini è emerso che la vittima forniva droga soprattutto a cittadini italiani e tra gli acquirenti c'era anche il presunto omicida. L'uomo aveva contratto un grosso debito con lo spacciatore 57enne. Secondo la ricostruzione degli inquirenti sloveni, dopo l'ingresso in casa dell'omicida, tra i due è scoppiata una lite finita con il delitto. Per l'arresto è stato fondamentale il contributo degli investigatori italiani e in particolare dei carabinieri di Aurisina, che hanno fornito la prova chiave, il DNA di Petelin, che è stato catturato il 20 giugno quando si è recato a Capodistria per recuperare il proprio telefono cellulare. Per il reato di omicidio è prevista il carcere per almeno 15 anni. Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Denunciata per omicidio stradale e fuga una donna di 39 anni del Monfalconese, sarebbe stata lei nella notte tra sabato e domenica ad investire uno scooterista di 56 anni a Ronchi dei Legionari e a darsi alla fuga senza prestare soccorso. L'uomo era poi deceduto in ospedale. Inizialmente era sembrato un incidente stradale autonomo, ma poi, grazie ad una testimonianza e all'analisi dei sistemi di videosorveglianza e dei lettori di targhe, i carabinieri sono risaliti all'auto che aveva investito la vittima. L'auto è stata trovata parcheggiata vicino all'abitazione della proprietaria. Uccisa con 57 coltellate, la maggior parte inferte a collo e nuca, sono i primi risultati dell'autopsia sul corpo di Elisabetta Molaro, uccisa dal marito nella loro casa di Codroipo la notte dello scorso 15 giugno. Una volta completata la perizia sarà consegnata alla procura, che nelle prossime ore concederà il nulla osta per i funerali della donna. Il bollettino della pandemia: ora ancora in aumento i casi di coronavirus e i ricoveri ospedalieri. I nuovi contagiati sono stati 1.361 contro i 940 di giovedì scorso. L'incidenza è ormai arrivata a 552 casi per 100.000 abitanti in una settimana. Su poco più di 6.000 tamponi il tasso di positività, oltre il 22%, è il più alto in regione dall'inizio della pandemia. 129 ricoveri nei reparti ordinari Covid, 11 più del giorno prima, quando già l'aumento degli accessi era stato di una ventina di unità. In terapia intensiva ci sono 6 persone, una in meno del giorno prima, un decesso nel Pordenonese. A Trieste, proroga della chiusura della Galleria Montebello fino al prossimo 25 luglio. I lavori proseguono con rapidità, fa sapere il Comune, tuttavia sono emerse alcune problematiche non preventivabili in sede di progetto. In alcune parti della volta le percolazioni di acqua necessitano infatti di un aumento delle perforazioni e iniezioni di impermeabilizzazione per aumentare il drenaggio. Inoltre, alcune zone di limitata estensione, ma limitrofe alla parte centrale della galleria, sono soggette a trasudazione, pertanto hanno bisogno di un intervento non previsto. La direzione dei lavori ha dunque chiesto una proroga di 30 giorni che prevede lavori da eseguirsi a galleria chiusa. La deviazione del traffico, anche dei mezzi pubblici, continuerà dunque per un altro mese. Annunciata la settimana scorsa dal prefetto di Trieste, è scattata ieri sera l'ordinanza antivetro emessa dal comune per un'estate senza vetro, ma anche senza schiamazzi ed eccessi. Limiti all'alcol e alla musica, questa è la risposta del comune di Trieste ai comportamenti molesti e alle risse che si sono verificati in città negli ultimi mesi. La nuova ordinanza antimovida, in vigore fino al 30 settembre, vieta di bere alcolici nelle aree pubbliche, ma anche in quelle private a uso pubblico, come i circoli ad esempio, dalle 22 fino alle 5 del mattino. Si possono bere gli analcolici, ma non in vetro. Fanno eccezione però i clienti di bar e ristoranti, che possono ordinare alcolici anche dopo le 22, ma devono consumarli stando seduti ai tavolini del bar o comunque nelle aree di pertinenza dei locali. L'ordinanza riguarda, come l'anno scorso, le vie del centro cittadino, ma quest'anno si allarga anche alla zona di Barriera e al quartiere di San Giacomo. In particolare citiamo Piazza Perugino, Via Sette Fontane, Piazza Garibaldi, Campo San Giacomo, Piazza Goldoni e il Viale 20 Settembre. Per la musica tornano in vigore le regole contro il rumore introdotte nel 2019. Venerdì e sabato sera si può mettere la musica fino a mezzanotte, gli altri giorni solo fino alle 23. Dopo questi orari la musica può continuare solo all'interno del locale, ma nei limiti del tollerabile. Ogni bar può organizzare 14 serate in deroga al regolamento. Trieste, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. Anche quest'anno tornano le attività della Guardia Costiera per la sicurezza in mare in questa stagione estiva, in cui saranno tantissimi ad affollare la costa e ad uscire in barca in mare aperto. Dallo scorso weekend fino al 18 settembre, la Guardia Costiera intensifica la vigilanza sulle attività balneari e diportistiche di chi sceglie i mari del Friuli Venezia Giulia per le vacanze. L'operazione Mare Sicuro, attiva da oltre 30 anni, quest'anno vede impiegati 13 mezzi navali coadiuvati da pattuglie a terra per un totale di 83 uomini. All'avamposto stagionale di Duino si aggiunge anche quello di Muggia, così da garantire maggiore vicinanza e assistenza. Una al giorno la media delle persone soccorse in mare la scorsa stagione, oltre 100 i verbali amministrativi comminati. Massima sarà la severità sul rispetto dei limiti di navigazione in prossimità di bagnanti. La sanzione amministrativa si aggira sui 1000 euro. Molte emergenze possono infatti essere facilmente evitate seguendo poche ma elementari norme di buonsenso. Riccardo Cozzani, caposervizio della Polizia Marittima della Capitaneria di Porto di Trieste. Ai diportisti, attenzione alla perfetta efficienza delle dotazioni di sicurezza, al funzionamento del motore, al carburante, alle condizioni meteorologiche previste. Ribadisco l'importanza di rispettare la fascia riservata alla balneazione, la distanza dai subacquei in immersione e i limiti di velocità. Negli ultimi anni, la tutela dell'ecosistema marino, tra i compiti della Guardia Costiera, è stata facilitata da una maggiore sensibilità. Paolo Masella, capo reparto operativo della Capitaneria di Porto di Trieste. Quando veniamo contattati per segnalare i cetacei, segnalare le tartarughe in difficoltà, quindi è piacevolmente, cioè, veramente è aumentata la tutela nei confronti dell'ambiente. Insomma, pian piano il rispetto alla cura dell'ambiente sta diventando sempre più un patrimonio comune. Trieste, Lillo Montaltomonella, TGR Friuli Venezia Giulia. Oggi ultimo giorno di campagna elettorale in vista del voto di ballottaggio nei comuni di Gorizia, Codroio e Pazzano Decimo. Domani l'insediamento dei seggi, si vota nella sola giornata di domenica dalle 7 alle 23, subito dopo inizierà lo spoglio. E oggi anche ultima tribuna elettorale alle 13:15 su Rai 3 con il confronto tra gli sfidanti a Gorizia, il sindaco uscente candidato del centrodestra Rodolfo Ziberna e la sfidante per il centrosinistra Laura Fasiolo. La tribuna andrà in replica alle 23:05 su Radio 1. I due candidati si confronteranno anche in un incontro pubblico in programma alle 18 nel parco del municipio di Gorizia. Anche negli altri due comuni al ballottaggio, appuntamenti di confronto conclusivo tra i candidati. E incontro ieri a Trieste tra il sindaco Roberto Di Piazza e l'ambasciatore della Repubblica di Slovenia in Italia, Tomas Kunstl, in visita di commiato, ricordati i momenti più significativi tra i due paesi, come lo storico incontro del 13 luglio 2020, quando i due presidenti della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, e della Repubblica Slovena, Borut Pahor, mano nella mano, hanno reso omaggio alla foiba di Basovizza e al monumento ai caduti sloveni. conferito all'ambasciatore il sigillo trecentesco della città di Trieste. Ed ora parliamo di scuola. Ieri la seconda prova scritta di maturità per quasi 9.000 studenti del Friuli Venezia Giulia e ora l'esame orale alle porte, ultimo scoglio per gli studenti. Da adesso testa bassa sui libri per preparare dal prossimo lunedì gli orali. Archiviata la seconda prova, che riguardava una disciplina tra quelle caratterizzanti il percorso di studio, dopo alcune ore di riposo si guarda già all'orale. Una seconda prova quest'anno diversa, dopo 3 anni di pandemia e di utilizzo della DAD, il Ministero ha ritenuto che fosse meglio affidare la predisposizione delle prove ai docenti delle materie di indirizzo di ciascun istituto, i quali hanno provveduto a elaborare 3 proposte di tracce tenendo conto dei programmi effettivamente svolti in classe durante l'anno. È andata abbastanza bene, direi, nonostante diverse difficoltà alla fine sono arrivato a far tutto e sono comunque felice e soddisfatto della mia prova. I docenti sapevano quello che avevamo fatto durante l'anno, hanno preparato la prova in base a quello, una prova comunque fattibile, è andata abbastanza bene. Credo sia stata una scelta ottima quella di far produrre la prova dai nostri docenti, in quanto sono quelli che sanno meglio ciò che noi effettivamente abbiamo studiato in questi anni e abbiamo imparato. Sicuramente ha aiutato dopo un anno difficile, sicuramente ha favorito magari la risoluzione di più esercizi, ecco, nei quesiti d'esame. Una prova, quella di indirizzo, che rischia di essere disomogenea nel grado di difficoltà da istituto a istituto. Anche per questo è stato attribuito un punteggio molto basso. Al massimo i candidati potranno prendere 10 punti su 100 contro i 15 del tema di italiano e i 25 dell'orale. Udine, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. Una musica che non conosce generazioni, davvero eterogeneo. Ieri sera il pubblico dei Maneskin al concerto che ha inaugurato il tour estivo del gruppo più rock del momento. Tra le 28.000 persone della data zero allo stadio Teghil di Lignano, bambini, giovani, persino anziani. Ma ascoltiamo il racconto di chi ha seguito il concerto per noi. Finisce con una trentina di fan scelti dalla band sul palco a partecipare ballando all'evento musicale dell'estate del Friuli Venezia Giulia. I Maneskin non deludono i 27.000 di Lignano, mettendo la loro energia e trasmettendola a un pubblico tanto entusiasta quanto eterogeneo, famiglie, ragazzini, ma anche quarantenni, italiani e anche stranieri, con quasi 3.000 biglietti comprati nel resto d'Europa per la prima rock band italiana di sempre a varcare i confini nazionali. Damiano e Victoria sono dei trascinatori nati, al di là di un repertorio limitato e con tante cover, sanno tenere il palco come consumate rockstar, un'attitudine che sorprende solo chi non li conosce. Se in America hanno ottenuto i complimenti di Mick Jagger, un motivo ci sarà. Si parte fortissimo con la hit Zitti e Buoni e ad uno i ragazzi romani sfoderano tutti i singoli da classifica, alternando rock, punk pestato, ma anche versioni acustiche come nel caso della meravigliosa Coraline. La chiusura, dopo quasi 2 ore di corse, di salti, addirittura di un'incursione della bassista Victoria tra il pubblico, con I Wanna Be Your Slave, unica pecca che dipende da chi li gestisce, il divieto a filmare il concerto con le telecamere nel 2022, una scelta anacronistica che però ci ha consentito di arrangiarci con gli smartphone. Liliano Sabbiadoro, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. Ora allo sport, il basket. Corey Davis vestirà la maglia della Pallacanestro Trieste anche nel prossimo campionato. La società e il play americano hanno raggiunto un accordo a tempo di record. Il contratto spedito negli Stati Uniti è tornato firmato in appena un'ora, ha raccontato il presidente Ghiacci. Intanto Trieste si prepara ad accogliere la sfida amichevole di domani tra le nazionali italiana e slovena. In campo ci sarà anche Luka Doncic, la conferma è arrivata dalla Federbasket slovena attraverso un tweet dopo l'ok da parte dei Dallas Mavericks, con cui il giocatore gioca in NBA. E ieri la conferenza stampa di presentazione, in cui abbiamo sentito il nuovo coach azzurro Gianmarco Pozzecco. Ci sarà il tutto esaurito al Pala Trieste. Italia-Slovenia promette spettacolo, con l'ultimo ingrediente, la presenza della stella NBA Luka Doncic. Per il CT azzurro Gianmarco Pozzecco, la prima amichevole sulla panchina dell'Italia prima della sfida di qualificazione agli europei con l'Olanda, ma sarà soprattutto una partita carica di emozioni, ripensando al suo vecchio allenatore Tullio Mikol. Sarà il primo test per verificare l'identità della nuova Italia del basket. Sentiamo il coach della nazionale Gianmarco Pozzecco. L'identità secondo me non può non essere associata alla condivisione, cioè non puoi creare un'identità in una squadra di pallacanestro se non c'è la volontà da parte di tutti di farlo, e quindi la condivisione di questo concetto deve essere alla base poi del tuo modo di giocare a pallacanestro, quindi grande disponibilità nell'aiutarsi, nell'aiutare un compagno di squadra, che non vuol dire solo in difesa, ma vuol dire anche in attacco, magari cercando di mettere nella condizione il tuo compagno di fare qualcosa di utile. Hai parlato del tuo rapporto burrascoso con la nazionale. Oggi convocheresti Gianmarco Pozzecco? Ma, insomma, dire Gianmarco Pozzecco non lo convocherei sarebbe ingiusto, perché per il talento che avevo, è anche vero che sarei anacronistico, nel senso che in questo momento giocatori come me non esistono, perché la personalità che avevo io oggi nel mondo dello sport non è ammessa, c'è molta più, diciamo, professionalità. Non che io non lo fossi, io avevo una personalità tutta mia. Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. E siamo al nuoto, niente finale dei 100 farfalla per Piero Codia ai campionati mondiali di Budapest. Il triestino ha fatto segnare il 14° tempo in semifinale, 51 secondi e 73 centesimi, preceduto dall'altro italiano Burdisso, che guadagna il posto nella staffetta mista. E adesso gli appuntamenti, la pagina degli appuntamenti dopo 3 anni di stop. Da oggi a domenica Aquileia tornerà alle atmosfere del 181 a.C. per un viaggio nel tempo e nella storia di una delle più grandi città dell'impero romano. Centinaia di rievocatori celti e romani animeranno l'8ª edizione di Tempora in Aquileia. La cerimonia di apertura con l'accensione del fuoco di Beleno si terrà alle 21 nell'area dell'accampamento romano accanto al foro. La musica, ultimo appuntamento di stagione, tutto nel segno della lirica, al Teatro Nuovo Giovanni da Udine alle ore 20 andrà in scena Tosca di Giacomo Puccini nello scenografico allestimento della Fondazione Teatro Comunale di Bologna e produzione del Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste. Per la prima volta dopo oltre 2 anni l'accesso in sala sarà consentito anche senza mascherina FFP2. Il pianista russo Sergei Beliavsky è il nuovo protagonista di Winners, la rassegna organizzata alla Fazioli con Concerto di Sacile è dedicata ai pianisti vincitori dei più prestigiosi concorsi internazionali. Il 29enne Beliavsky di premi ne ha già vinti una trentina, tra cui ultimo il prestigioso concorso Paderewski in Polonia. A Sacile eseguirà brani di Bach, Schubert e Saint-Saëns, inizio alle 19. A Muggia debutta la festa barocca, la piazza e la chiesa fino a domenica con concerti, spettacoli, inabiti d'epoca, workshop. Si comincia oggi alle 21 nella chiesa di San Francesco con il saggio concerto della classe di strumenti antichi del professor Manuel Starapoli del Conservatorio di Trieste. Prosegue nel segno di Rossini il progetto europeo Bravo Bravissimo dell'Orchestra San Marco di Pordenone alle 20.30 a Palazzo Mantica con il coro del Friuli Venezia Giulia, Francesca Sperandeo e Federico Lovato al pianoforte, Cristiano Dell'Oste all'armonium, direzione di Gaetan Nasato Tagné. E vediamo alcuni libri. A Grado alle 18 al Velarium Gitt Paolo Picchierri presenta il suo romanzo Il Diamante di Grado. Pino Roveredo, I sentimenti dei bambini, alla rassegna Libriamo nei lieti calici all'interno del festival itinerante della conoscenza Dialoghi. Alle 18.30 azienda agricola Lisneris di San Lorenzo Isontino, lo scrittore presenterà I ragazzi della Via Pascoli. Una storia di amicizia, alberi e rispetto per l'ambiente, il libro Il mio bosco di tutti di Luigi Torreggiani, che oggi viene presentato alle 18.30 al Caffè San Marco di Trieste. I convegni, salute a Trieste nella sala convegni del Molo IV dalle 14.30, si parlerà di morte cardiaca improvvisa in età giovanile, stato dell'arte in Friuli Venezia Giulia e update della conoscenza. Il congresso prosegue domani analizzando un'evenienza drammatica e dolorosa per orientare la ricerca scientifica verso la prevenzione e la diagnosi precoce. La 2 giorni di studio organizzata dal centro di coordinamento del registro regionale delle morti cardiache improvvise in età giovanile e sarà occasione per un confronto con analoghe esperienze regionali di Emilia-Romagna, Veneto, Toscana e Lombardia. La cooperazione internazionale come strumento per creare dal basso ponti di pace tra i popoli alle 17.30 nella Sala Paolino d'Aquileia di Via Treppo da Argentina, Myanmar, Etiopia, Georgia si ritrovano i rappresentanti di progetti di cooperazione che coinvolgono la Chiesa Udinese, intervengono tra gli altri l'Arcivescovo di Udine Mazzoccato, il direttore di Caritas Udine Don Golazzo, il direttore di Caritas Italiana Don Pagnello. E torna la notte romantica nei borghi più belli d'Italia, 13 in Friuli Venezia Giulia, la musica al filo conduttore di questa settima edizione, 12 le tappe, dal concerto omaggio ad Ennio Morricone, a Sesto Arreghen, alle atmosfere romantiche francesi da rivivere a Claudiano di Trivignano con un quintetto di fiati al femminile. Le altre tappe interessano le suggestive ricercate atmosfere di Cordovado, Fagagna, sul Colle del Castello, Gradisca di Sonzo, Fabro, Polcenigo, Sappada, Strassoldo, Toppo, Valvasone e Venzone. Oltre ai concerti, fino a domenica anche cene a lume di candela, menù a tema, brindisi sotto le stelle, concorsi fotografici, flash mob e visite guidate alle chiesette campestri. E apriamo la nostra rassegna stampa con il Piccolo di Trieste che apre con un'immagine, il rendering dell'ingresso dell'Ovovia studiato dallo studio del celebre architetto Fuxas, la Cabinovia a Porto Carso svelato ieri al convegno, l'alfabeto del futuro, il progetto è una struttura esagoni per l'ingresso dell'impianto in Porto Vecchio. Poi di spalle i temi emersi durante questo convegno dalla questione grandi navi e collegamenti che mancano fino alle parole del ministro Brunetta, ospite in collegamento. Non siamo in recessione, ha detto il ministro e spiega anche il perché. Nelle pagine interne siccità, stato d'allerta, l'ordinanza di Fedriga contro gli sprechi, e poi la Fondazione Gimbe. Siamo la regione italiana con il più forte aumento dei casi Covid in una settimana, nuovi contagi saliti del 91.5%. L'apertura del capocronaca di Trieste dedicata all'omicidio in Slovenia del trafficante di droga Dario Germek. Arrestato il triestino Adriano Petelin, era andato dalla polizia a Capodistria per riavere il cellulare sequestrato e si è ritrovato in manette. E poi si parla del consumo di alcolici solo fino alle 22, movida nel giornale, le nuove regole, non ci sono più, non ci si può più allontanare con i bicchieri e le bottiglie in mano dai tavolini di pertinenza. Crescono contagi e ricoveri per Covid, i più alti dati d'Italia. L'apertura del Messaggero Veneto di Udine, che in alto ha una grande foto per la siccità, attività ridotta per le centraline in regione, decreto contro lo spreco. Di spalla alla cronaca, l'omicidio di Codroipo, Elisabetta Molaro uccisa con 57 coltellate e sotto Giada Mora, 21 anni, 10 giorni dopo l'incidente. Era uscita di strada a Terenzano schiantandosi con l'auto. In taglio alto, famiglie in crisi per il caro vita, le richieste dei consumatori, accanto controlli della Guardia di Finanza contro le truffe del superbonus. Nella cronaca cittadina c'è la rottura anticipata del contratto tra comune e la società che gestisce le mense di asili e nidi in città. L'azienda era in difficoltà nel rispettare il capitolato. In arrivo, si legge, l'appalto pluriennale per tutte le scuole cittadine. Covid, gli ospedali di nuovo pieni, apre il Gazzettino inserto del Friuli nella fotonotizia. Più di 50 coltellate per uccidere Betta, accanto Giada, morta a 21 anni, 13 giorni dopo lo schianto in auto. Di spalla, taglio del gas dalla Russia, la grande paura nelle fabbriche, e sotto Croazia e Slovenia trivellano l'Adriatico. In taglio basso la siccità, multe e limiti di 200 litri al giorno per i pozzi. L'apertura del Piccolo di Gorizia è dedicata al ballottaggio di domenica per la carica di sindaco, una sfida all'ultimo voto, Fasiolo e Ziberna nei quartieri a caccia degli indecisi, il duello dei maxi cartelloni. E poi anche qui la fotografia in primo piano, si parla del convegno del turismo che si è tenuto a Trieste. La pagina della cronaca di Gorizia apre appunto con il ballottaggio, le proiezioni in caso di vittoria di uno o dell'altro, un consiglio comunale completamente diverso. La pagina di Monfalcone apre anche con la politica, con le parole dell'ex assessore allo sport Francesco Volante: io scaricato senza motivi, sono deluso e non so se continuerò, dice. Covid e gli ospedali di nuovo pieni, l'apertura del Gazzettino di Pordenone. Nella fotonotizia si legge: il sindaco dice sopportate la musica all'aperto, serve per rilanciare l'economia. Comune, la Lega decide di silurare l'assessore fantasma Morena Cristofori alle attività produttive, subentra all'uscente. Di spalla Cronospan chiede i danni al comitato ambientalista, azioni civili nei confronti di Eleonora Frattolini e Lucia Mariuz del comitato ABC, contrario all'ampliamento del sito produttivo. In basso, multe fino a 500 euro per chi spreca l'acqua. Siccità in regione, norme antispreco e multe in arrivo, e l'apertura del Messaggero Veneto, edizione di Pordenone. Nella fotonotizia, anche qui la finanza in lotta contro le truffe del super bonus. Di spalla Morena Cristofori, nuovo assessore, subentrata appunto a Miot. Ad Aviano, ufficializzato l'esecutivo guidato da Tassan Zanine, a Casarsa formata la giunta Colussi, e infine nasce Frutta Friuli, la più grande coop del settore in regione. Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle ore 11 con la presentazione dei programmi regionali e le anticipazioni del giornale radio. A seguire il quotidiano appuntamento in lingua friulana con VE o Fevelindi. Alle 11.20 circa andrà in onda Un tranquillo weekend da paura. I programmi regionali tornano alle 13.30. È tutto per questa prima edizione del giornale radio regionale. In regia Walter Vidonis e Mauro Cumin. In redazione ha collaborato Manuel Bussani. Da Anna Vitaliani e Rita Micoli, grazie per l'ascolto e l'augurio di una buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.